La mia storia non parla di gloria, te lo rammento, perché per me sto suono suona come un lamento che sento nascere dentro me. Questa è la storia di un randaggio made in Bayer. La mia storia non parla di gloria, te lo rammento, perché per me sto suono suona come un lamento che sento nascere dentro me. Questa è la storia di un randaggio made in Bayer. E rima dopo rima, ininterrotta, continua la mia losca sotto storia doppia, che con coraggio, rispetto, onore, esperienze vive, cresco forte, zero timore di sconfitto o morte. Io cane pacco al microfono e mordo forte chi si impone, senza ragione contro la mia fottuta posizione, credendo di essere meglio addestrata a questo mondo, cane nel quale mie battaglie quotidiane porto avanti, senza fiatare, senza pensare, zero progetti illusionari qua, solo fatti concreti, almeno come ogni sorta di tipologia, sbatti con i quali in tasca soldi facili entrano freschi, faccio cassa per portare avanti questa nostra causa all'apparenza persa, persa almeno quanto la mia vita, senza la mia fottuta causa in testa che ormai da anni, per HH qui, OKG, cane pacco sopra beat, vive senza sosta, hip hop, unica mia passione pura, istinto primordiale che mi viene di natura, con la mia metrica io racconto verità, narro la mia vita, tradita, per me sinonimo di strada in salita, e dove nella quale cane devo arrampicarmi, trascinarmi teso peso con le dita, tipo eremita, fanculo, nuovo giorno, nuova sfida, ma non mollo mai, cane combina guai, perciò tranquillo, continuo il mio cammino sicuro, qui dalla baia dei re, scuola del pugno duro. La mia storia non parla di gloria, te lo rammento, perché per me sto suono suona come un lamento che sento nascere dentro me. Questa è la storia di un randaggio made in baia dei re. La mia storia non parla di gloria, te lo rammento, perché per me sto suono suona come un lamento che sento nascere dentro me. Questa è la storia di un randaggio made in baia dei re. E non mi abbatto, originale cane guapo, se cado fanculo mi rialzo e poi combatto finché posso e ad ogni costo, randaggio stringo forti i denti ma non mollo l'osso, e detto questo col mio show finisco, questa è la mia storia e lascio un'altra impronta sul disco.